lavoro e un non eccessivo interesse per il punto di vista e i diritti dei singoli imputati. E questi, diciamocelo, non sono vizietti di cui la nostra attuale cultura giuridica possa considerarsi felicemente estranea. Vedete? Io personalmente non ho pratica dei tribunali, grazie al cielo, ma mi ricordo benissimo quando ero a scuola. Certi colleghi che si consideravano efficienti esclusivamente in base al numero degli studenti che riuscivano a segare a fine anno e rimediavano alla più totale inettitudine sul piano didattico affettando un'inesorabile severità agli scrutini e agli esami. E se è vero che quelli sono giudizi di tutt'altra specie, è altrettanto vero che in questo nostro paese la gente comincia a parlare dell'incapacità dei tribunali e dell'inefficienza della giustizia soprattutto quando in qualche processo importante capita che l'imputato sia assolto. O quando, in un modo o nell'altro, le procedure e le norme vigenti sembrano agire a favore di chi magari dietro le sbarre aspetta il giudizio. E allora soprattutto che tutti cominciano a dire che è ora di cambiare. Così, per fare un esempio di questi giorni, se la Corte Costituzionale decide che non può essere giudice di merito in un processo il magistrato che si è già pronunciato in altra sede su quello imputato, negandogli per esempio la scarcerazione, nessuno, ma proprio nessuno, si prende la briga di commentare nel merito questo pronunciamento, che a un profano come me sembra assolutamente ragionevole, ma naturalmente posso sbagliarmi e sono pronto a sentire degli argomenti in contrario. Invece cominciano tutti a stracciarsi le vesti sul numero dei processi che non si potranno celebrare e sul numero degli imputati che, decorsi i termini fissati dalla legge per tenerli dentro, ne approfitteranno per venire fuori. E i giornali? Tutti i giornali titoleranno sul rischio che 500 mafiosi, anzi 500 boss mafiosi, racquistino nei prossimi mesi la libertà, senza chiedersi se non sia meglio che 500 cittadini siano liberati dalle patrie galere piuttosto che siano giudicati con delle procedure che la Corte Costituzionale considera sbagliate. E visto che l'equità di giudizio e la correttezza della procedura nonostante tutto spettano anche i boss mafiosi, che oltretutto possono essere definiti tali solo dopo essere stati processati e non prima, come adesso. Quanto agli operatori del diritto, non vi sarà sfuggito che un'assemblea di pubblici ministeri e procuratori vari ha chiesto al governo che a questa evenienza sia posto presto rimedio, come leggo sul Corriere del 1 maggio, con un provvedimento legislativo che consenta di non sprecare il lavoro finora svolto, cioè salvando gli atti processuali compiuti dai magistrati che secondo la Corte non avevano la competenza per compierli, che è un simpatico caso in cui il criterio di efficienza entra in contrasto con quello del rispetto della norma che ne pensino i procuratori antimafia, non è un di più ma fa parte integrante di quella che in mancanza di meglio noi chiamiamo giustizia. E la stessa assemblea ha fatto capire che tutto sommato non sarebbe male tenere dentro in qualche modo chi per ora non si può processare, non allungando i termini di carcerazione preventiva, non fia mai una proposta di cui oggi si vergognerebbe più incallito dei pubblici ministeri, ma prospettando, come dire, un intervento sui cosiddetti termini di fase, che naturalmente per un profano non è facilissimo capire che cos'è, ma scava e informati si scopre che vuol dire che chi dovrebbe uscire per intanto non esce, perché gli allungano i termini nella sua fase corrente, e quella che lo riguarda adesso, salvo diminuirgli nella fase futura, quando magari non gli serviranno più. E, insomma, un trucchetto abbastanza indegno per continuare a tenere in galera la gente senza processo e senza neanche avere il coraggio di dirlo esplicitamente. Il governo deciderà dopodomani, ma il ministro competente ha già preparato uno schema in cui entrambe queste richieste sono prontamente accolte. E allora che volete farci? Di fronte a simili manifestazioni di efficienza dei pubblici poteri, il cittadino non può che affidarsi alla speranza della loro inettitudine.